Buongiorno. Il palco si trasforma. Ringraziamo Bianca e vogliamo ringraziare anche Gianluca. Gianluca, mi raccomando, al nostro uccellino che già è traumatizzato di suo e è qui da ieri sera in quella gabbia, è rimasto al buio in questa sala da solo, e quindi già di suo, a me già gli animali in gabbia non mi piacciono, quindi quello che faremo è liberare l'uccellino a fine di questa predica. A dire vero non possiamo, perché non è mio, non posso scegliere io. Però ecco, qui abbiamo vari elementi che ci serviranno per comprendere appieno quella che è la parola che il Signore ha messo nel mio cuore questa mattina. Siamo pronti? Quello che ci sta, bene, vedo che proprio siamo prontissimi. Questo viene qua. Vogliamo alzarci in piedi. Questa settimana è la prima settimana del mese. Benvenuti ad aprile. Puoi dire alla persona che ti sta a fianco: benvenuto ad aprile, è cominciato un nuovo mese. A noi piacciono i nuovi mesi. E la prima settimana del mese non è altro che la prima occasione che abbiamo per partecipare ai gruppi familiari. Noi la prima settimana del mese, la terza settimana del mese, abbiamo come chiesa i gruppi familiari, perché come chiesa siamo strutturati in gruppi familiari. Che cosa sono i gruppi familiari? La mia definizione preferita di gruppi familiari sono la scelta che noi come chiesa prendiamo di vivere delle relazioni dove intenzionalmente mettiamo Cristo al centro. Questi sono i gruppi familiari, è la nostra scelta di creare relazioni sane tra cristiani, tra credenti, mettendo intenzionalmente Cristo al centro. Quando noi ci riuniamo nei gruppi familiari, non facciamo altro che mettere Lui al centro dei nostri discorsi, dei nostri confronti, non facciamo altro che mettere Lui al centro per la preghiera e per le sfide che abbiamo, non facciamo altro che dibattere, parlare, vivere delle serate dove Lui e la Sua parola viene messa al centro. E questo mese abbiamo qualcosa di meraviglioso che comincia, perché la nuova rete di gruppi familiari dei giovani più adulti, gli uscenti dagli Upside Down, cominciano ora anche loro a incontrarsi in quelli che sono 5 nuovi gruppi familiari, giusto? 5 nuovi gruppi familiari. Posso vedere le mani dei nuovi capogruppi che per questo mese per la prima volta guideranno il gruppo? Bene, c'è qualcuno. Stasera forse vengono gli altri. Che bello, Enza, con la mano così, timidi. E Micaela, voi sicuramente gli altri 3 verranno stasera. Ah, c'è Vito anche dietro, dov'è? Ah, eccolo, là sopra, eccolo. Vogliamo pregare per questo nuovo inizio. Noi crediamo che il Signore può servirsi dei gruppi familiari per creare una rivoluzione. Quello che è successo negli Atti degli Apostoli, la Chiesa non era il venire la domenica nel Tempio, nei cortili del Tempio, come facciamo noi oggi, ma la Chiesa è vivere le relazioni durante la settimana. Quindi noi crediamo fermamente che i gruppi familiari, in modo particolare quest'anno che stiamo cercando di migliorare tutto il funzionamento dei gruppi familiari, siano il mezzo che il Signore ci darà per raggiungere ancora più persone e per efficacemente mettere Cristo al centro nelle nostre relazioni. Vogliamo quindi pregare insieme, e c'è un'altra cosa che voglio dirvi, c'è un foglio guida, io credo che tutti i capogruppi sono al corrente di questo, c'è un documento guida che facilita la vostra conduzione del gruppo e potete prenderlo al punto info, ed è un documento che dà il riassunto del messaggio, i versi che andremo a leggere oggi, alcune domande che possiamo fare e alcune notizie anche da condividere nel gruppo familiare. Quindi avete proprio la strada spianata, è facilissimo guidare un gruppo. Se ancora non lo fai, il Signore, io credo che stia chiamando ogni singolo credente di questa Chiesa a diventare un futuro capogruppo, perché il suo mandato di andare e fare discepoli non era relegato solo a una piccola cerchia di persone, ma ad ogni credente, a ognuno che si definisce discepolo di Cristo Gesù. Quindi se non sei ancora un capogruppo, lo diventerai. Questo non è un invito, è una minaccia. E quindi adesso io pregherò pure per te affinché tu possa accogliere questa minaccia nella tua vita e viverla presto. Signore, noi ti ringraziamo perché sei meraviglioso, vivere con te è meraviglioso e appartenere alla tua Chiesa è meraviglioso. Noi vogliamo che le nostre relazioni non siano solo amicizie. Pare che noi non formiamo delle comitive, che noi non formiamo dei gruppi di discussione, ma che, Padre, noi viviamo delle relazioni dove Spirito Santo tu sei al centro e dove tu hai modo di parlare, di operare e di creare delle connessioni divine, che tu, Padre, nei nostri incontri familiari possa parlare con profezie e visioni. Io prego, Padre, che nei gruppi familiari che si riuniranno questa settimana tu possa permetterci di approfondire la tua parola e di essere benedetti riccamente da vite che sono radicate in essa. Padre, noi vogliamo te al centro e vogliamo, Padre, che attraverso la lotta in preghiera nei nostri gruppi familiari tu possa farci vedere miracoli e soluzioni per ogni problema, per ogni circostanza difficile. E insieme, Padre, veniamo a te per pregare anche per questi nuovi gruppi, questi 5 gruppi, per questi 10 capogruppi che cominciano questa avventura. Noi li benediciamo nel tuo nome, Signore Gesù, e chiediamo che l'unzione tua possa essere su di loro, per essere delle guide fantastiche che attraverso l'esempio di vita possono stimolare, discepolare, guidare le persone che tu stai affidando dando a loro in nuovi territori. Grazie Gesù, sei un Dio meraviglioso. Affidiamo a te anche la parola di questa mattina. Ti preghiamo per l'uccellino che possa stare tranquillo e ti ringraziamo per tutto quello che vuoi dirci. Amen. Amen. Amen. Batti 5 alla persona che ti sta a fianco e possiamo accomodarci. Se manchi l'obiettivo della mano non fa niente. Così ci svegliamo anche. Allora stamattina ci divertiremo insieme. Ci divertiremo insieme perché andremo a prendere una parabola, la più importante delle parabole, ed è la parabola dei diversi terreni. Credo che noi tutti la conosciamo, però la andiamo a leggere. Si trova in tutti e tre i Vangeli sinottici, però quello che andremo a leggere stamattina è il Vangelo di Luca. Luca capitolo 8, dal versetto 4. In questa parabola abbiamo tanta ricchezza che vogliamo cogliere tutta questa mattina. Quindi io prego, la mia preghiera è che tu possa avere il cuore aperto, le orecchie libere e che lo Spirito Santo possa parlare alla tua vita. Leggiamo insieme. Ora, come si riuniva gran folla e la gente d'ogni città correva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminar la sua semenza. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia e come fu nato, seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine nate insieme col seme lo soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra e nato che fu... Bella questa versione, ma che versione avete messo? Del 1927. È nato che fu, frutto il 100 per 1. Dicendo, dovrei dirlo un po' in una maniera teatrale. Ed un'altra parte cadde nella buona terra. È nato che fu, trovò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi da udire, oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dire questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole affinché vedendo non veggano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola: il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice. Credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ci sono quattro scenari che Gesù illustra in questa parabola. Prima parliamo del fatto della parabola. Perché Gesù parla in parabole? Potremmo soffermarci su questo aspetto a lungo, però in breve quello che Gesù fa a partire da questo momento in poi è parlare sempre più in parabole, è parlare in modo tale che coloro che lo ascoltano non percepiscano pienamente il messaggio, se non hanno fame realmente di comprenderne il significato. E questo è il senso della parabola e questo è il motivo per il quale Gesù parla in parabole. Quindi è una parabola che parla del senso delle parabole. Cioè Gesù parla in parabole perché il desiderio suo è che le persone siano contraddistinte. Cioè vuole che il pubblico che si ritrova davanti Gesù sia distinto tra quelli che vogliono ascoltare in una maniera superficiale la parola di Dio e non interessarsi e non scavare, non vivere le benedizioni e la salvezza che c'è nella parola di Dio, rispetto a coloro che il Signore vuole e chiama a scavare, a domandare, a ricercare, a mettere le fondamenta e portare frutto. I quattro scenari illustrano quello che è il cuore nostro. E la mia consapevolezza è che anche stamattina, davanti a me, io ho tutti e quattro i scenari. Probabilmente non tanto il primo, ma sicuramente tutti gli altri ci sono. Tu sei qui questa mattina ascoltando la parola di Dio e quello che ascolterai questa mattina troverà dei terreni, il terreno del tuo cuore, pronto o meno pronto o non pronto del tutto. E questo dipende dall'attitudine nostra, dalla fame nostra e dal desiderio nostro. Per questo Gesù in più di un'occasione, in questa parabola, dice a coloro che lo stanno ascoltando, udite bene. Chi ha orecchi da udire, oda. E questo è il mio appello a te questa mattina, che tu possa ascoltare la parola, ma non con un ascolto che sia di livello 1, ma di un ascolto che sia di livello 4. Qual è l'ultimo dei scenari? Parleremo dell'ultimo scenario, perché a me piace pensare che Gesù ha questo cuore per ciascuno di noi. L'ultimo scenario è lo scenario di un buon terreno, il quale, incontrando la parola, essendo incontrato dalla parola, comincia a portare molto frutto. La parabola parla del 100 per 1. Negli altri Vangeli si parla del 30 per 1, 60 per 1 e 100 per 1. E che cos'è questi? Che cosa sono questi numeri? Sono delle proporzioni del frutto in base alla semenza. E quello che gli studiosi dicono è che anche il 30 per 1 in realtà è un raccolto miracoloso, stravolgente. Questo è il desiderio di Dio per ciascuno di noi, che la nostra vita sia un terreno che sia ricettivo della parola di Dio, perché l'obiettivo di Dio è che noi possiamo portare frutto, frutto in abbondanza, un frutto miracoloso, il 100 per 1. Il 100 per 1 è quel tipo di raccolto che Isacco in Genesi 26 ottiene da Dio miracolosamente. È un raccolto talmente abbondante che fa di Isacco un uomo potente e molto, molto, molto ricco. Che cosa vuole Dio per te? Che cosa vuole Gesù per te questa mattina? Lui vuole che tu sia una vita che porta molto frutto, che sia trasformata attraverso la parola di Dio per essere riccamente benedetto e per riccamente benedire altri. Questo è il tuo destino, questa è quella che è la tua chiamata, questo è quello che Dio desidera per te. Ed è meraviglioso questo. Lo ritroviamo anche in Giovanni 15. Vi ricordate l'immagine che Gesù offre in quell'occasione della vite, dei tralci e del frutto? E in più di un'occasione Gesù dice che Lui desidera per noi che noi portiamo molto frutto. Questa mattina Dio ti dice, io voglio che la tua vita sia fruttuosa. Io voglio che tu porti tanto frutto. Ora, non so se avete mai visto un terreno incolto, un terreno dissodato lì che è senza piantagione. E poi passi magari dopo qualche mese e trovi questi piccoli primi germogli e già il terreno comincia a cambiare. passi dopo alcune settimane e quel terreno è completamente trasformato. Quel terreno ti parla di abbondanza, ti parla di ricchezza, ti parla di cibo, ti parla di cose bellissime, c'è colore, c'è vita. E questo è quello che Dio vuole fare per te e per me. Lui ci incontra in una condizione, ma non vuole lasciarci in quella condizione. Lui ci incontra quale terreno vergine, ma ci vuole far diventare un campo fruttuoso, ricco di colori, ricco di vita, ricco di abbondanza, ricco di benedizione per gli altri, che gli altri possono sfamare e possono mangiare. Dio vuole fare di te una ricchezza per te stesso, per la tua famiglia e per gli altri. Micaela, il Signore vuole che tu sia fruttuosa nella tua vita, che tu porti molto frutto, anche nel guidare il gruppo questa settimana. Il Signore vuole che tu guardi queste persone e sai che il tuo destino di vita è chiamato a trasformare le loro vite, a portare abbondanza attraverso di te in loro. Anna, riesci a prenderlo? Ah, che lancio perfetto che ho fatto! Anna, il Signore ti chiama ad essere abbondante di ogni ricchezza, di ogni benedizione. Anche se quel terreno tu magari lo vedi e porta tristezza in te stesso, perché dici ancora incolto, il Signore viene per abbondarlo di parole positive e per portare frutto. Potrei andare avanti con ognuno di voi e sarei molto sfidato a lanciare soprattutto la mela, il melone. Mi limiterò, ma il Signore vuole che tu porti frutto e frutto in abbondanza. Questa è forse una delle cose più importanti che noi comprendiamo da questa parabola, che il cuore di Gesù è tanto buono per noi, che Lui vuole il meglio per noi. Antonio, che Lui vuole il meglio per te. Fantastico, fantastico. Ora, andiamo a vedere gli altri scenari però. Il primo scenario è quello della strada. La strada ci parla di un terreno che è duro. Noi dobbiamo comprendere che all'epoca di Gesù veniva prima lanciato il seme e poi veniva arato. E quando si andava ad arare, questo seme veniva nascosto nel terreno soffice e attraverso questo processo poi il seme nascosto nel terreno portava frutto, non per la strada. Il contadino non arava la strada era terreno calpestato, era un terreno duro e quindi il seme rimaneva in superficie. E quello che Gesù sta dicendo è che quando la parola di Dio rimane in superficie nella nostra vita, il diavolo viene. Non vi sembra minaccioso? È la perfetta illustrazione del diavolo nella nostra vita. Ti ammazzeremo. Sto scherzando per tutti gli animalisti. Animali in mezzo a noi. Il diavolo viene. Il diavolo viene e ruba. E non perde occasione di farlo. E quando il nostro terreno non è soffice abbastanza, e quando il nostro cuore rimane duro, e la parola di Dio rimane in superficie, lui non perderà tempo per rubartela. Lui non perderà tempo di rubartela quando uscirai da questa sala. Lui non perderà tempo domani mattina di rubarti tutto quello che avrai sentito oggi. Lui non perderà tempo se trova un terreno duro che non assorbe la parola e che non penetra. Per questo l'appello di Gesù a ciascuno di noi è non essere una strada, non essere duro. Io credo che una delle difficoltà maggiori è il nostro carattere così duro e impenetrabile, la nostra testardaggine così dura, impenetrabile, quando noi siamo testardi, accecati dalla nostra rabbia, accecati dalla nostra condizione che diciamo io ho ragione, io so come meglio vivere la mia vita, lì il seme della parola non penetra e come arriva se ne va perché il diavolo lo porta via. La leggerezza, la religiosità. La religiosità è quella strada, quando noi veniamo qui in chiesa, ascoltiamo, ma è tutto come se già lo sappiamo. La parabola dei terreni, quante volte l'hai sentita nella tua vita? Tante volte, quante volte l'hai letta nella tua parola? Chiudiamo le nostre orecchie, il Signore non ha più niente da dirci. Veniamo in chiesa, sì, ma facciamolo solo come abitudine, come routine. No, questo ci deruba di ogni ricchezza e benedizione che Dio ha per noi. Dio ci chiama a un'abbondanza di frutto, ma il seme deve penetrare. Quella che è una minaccia ancora più grande probabilmente è che è la roccia. La roccia è quella condizione del cuore dove il seme cresce, cresce subito e gioiosamente noi prendiamo la parola. E questa è la condizione, io credo, di molti di noi quando ascoltiamo la parola di Dio. Quando viene predicata in maniera così efficace, penetra dentro di noi, ci porta gioia, ci porta entusiasmo, vogliamo cambiare, vogliamo rinnovare, vogliamo vivere tutte le benedizioni che Dio ha per noi. Però sotto quel sottile strato di terra c'è la roccia, le radici non affondano e la parola di Dio dice che il sole viene. Abbiamo acceso il sole. Il sole viene e brucia quella pianticina, brucia quel germoglio. E sapete, il problema non è il sole. Gesù qui sta dicendo, tu non puoi cambiare le circostanze sopra di te, attorno a te. Se pensate, è più o meno la stessa illustrazione che Gesù fa del saggio che costruisce la sua casa sulla roccia e dello stolto che costruisce la sua casa sulla sabbia. E Gesù dice, la fiumana arriva in entrambi i casi. Le tempeste si scagliano contro quelle case, quella casa in entrambi i casi. E Gesù sta dicendo, tu non puoi controllare la tempesta nella tua vita. Gesù sta dicendo, tu non puoi controllare a che punto l'acqua arriverà. Gesù sta dicendo, tu non puoi controllare la potenza e il calore del sole che si scaglierà contro la tua vita. Succederà, tu non hai il controllo su queste cose. Ma puoi scegliere su quale terreno radicarti e quanto la tua casa sarà fondata sulla parola di Dio. E quanto la tua pianta avrà delle radici profonde. Questo è quello che tu puoi scegliere. E se scegli bene, tu rimarrai saldo, tu rimarrai sicuro. Certo, fuori probabilmente vedrai la tua casa inondata, vedrai il vento, potrai sentire le pareti che cominceranno a tremare. Probabilmente sentirai la minaccia del tetto che da un momento all'altro può scoperchiarsi. Ma dentro la casa tu potrai mettere musica classica, sederti su un divano e sorseggiare del tè e stare tranquillo perché qualsiasi cosa accada là fuori, tu sai che la tua casa è ben fondata sulla roccia che è la parola di Dio. Quando Gesù parla di questo dice... Non limitatevi ad ascoltare la parola di Dio, ma mettetela in pratica. E questa è la differenza, fratelli e sorelle, questa è la differenza. Il sole che cos'è? Il lunedì mattina. Il sole sono le sfide che ritroverai in questa settimana. Il sole è quando esci fuori da questo locale. Il sole è il tuo matrimonio, la tua famiglia, le tue scelte, il tuo lavoro, le persone attorno alle quali stai. E tutto questo tu non lo puoi cambiare, ma puoi cambiare il terreno che è sotto di te, è il fondamento che tu metti, è le scelte radicali che tu fai. Gesù ti chiama questa mattina a vivere un terreno che sia buono e non una roccia. Sii certo che il Signore farà abbondare ogni benedizione su di te. Se questa mattina scavi, e scavi a fondo e permetti alla parola di Dio di penetrare. Non leggere soltanto la Bibbia, medita la Bibbia. Non ascoltare solo le prediche, studia le prediche. Non essere un uditore, come dice Giacomo, che è disavveduto, ma sii un facitore della parola. È relativo quanto Bibbia sai. È molto più importante quanto Bibbia sei. Quello che farà la tua differenza questa settimana non sarà quanto sai che Gesù insegna sul perdonare. Quello che farà la differenza questa settimana è la tua scelta di perdonare. Non ha importanza quanto sai che devi vivere una vita nella quale porgi l'altra guancia. Ciò che farà la differenza è quanto tu ci riesci questa settimana a viverlo. E in tutto questo... Puoi ascoltarti l'ultimo messaggio che ho dato su questo. Hai lo Spirito Santo dalla tua parte. Non devi farcela con le tue forze, con i tuoi sforzi. Hai lo Spirito Santo che ti potenzia per vivere una vita gloriosa, miracolosa, abbondante e fruttuosa. Le spine. Le spine probabilmente sono la minaccia più grossa. Qui ci avviciniamo forse a quello che è la condizione più rischiosa per le nostre vite. Io credo che pochi di noi subiscono furti da parte del maligno. Sì, forse a volte accade, ma nella maggior parte dei casi noi non glielo permettiamo. Gloria a Lui per questo. In poche occasioni il sole prevale su di noi, se no non staremmo qui. Abbiamo affrontato le prove, l'abbiamo fatto e a volte cadiamo, ma abbiamo la forza di rialzarci. Perché? Perché abbiamo delle fondamenta, perché abbiamo delle radici. Ma quella che è la sfida, io credo, e la minaccia più grossa nelle nostre vite sono le spine. Che sono le spine? Le spine nascono con noi, le spine crescono con noi e noi cresciamo come pianta. Noi cresciamo come credenti, ma le spine crescono con noi e crescono attorno a noi e cominciano lentamente a soffocarci, lentamente a intrecciarsi a noi, lentamente a toglierci l'ossigeno. E la parola di Dio dice, Gesù sta spiegando, che il problema di questa pianta non è che non ha radici, non è che non cresce a sufficienza. Il problema di questa pianta è che non porta frutto perché è soffocata dalle radici. Cosa sono le radici? Beh, la parola di Dio è molto chiara, a me piace la franchezza con la quale Gesù parla e io con altrettanta franchezza stamattina voglio parlare a ciascuno di noi. Sono le ricchezze, sono le preoccupazioni che dipendono dalle ricchezze, sono i piaceri della vita. Quello che Gesù sta dicendo è che ciò che apparentemente è per ciascuno di noi un piacere diventa la minaccia di morte più pressante, più schiacciante per il destino di vita che Dio ha per te. Le ricchezze, l'avere, il comprare, il permettersi, il ricercare, il rincorrere, sono quelle spine che non permettono a te e a me di portare frutto glorioso per l'opera di Dio e abbondanza di vita dentro di noi e attraverso di noi negli altri. Sono le ricchezze. In Matteo parla dell'inganno delle ricchezze. Le ricchezze sono un inganno. Sono qualcosa che sembra, luccica, sembra molto bello, è molto attraente. Sono delle spine. Sono delle spine che ti soffocano. Sono delle spine che si intrecciano. Sono delle spine sottili che crescono con te e sarà molto, sempre più difficile liberartene. E quella scelta di accettare quel mutuo, ce la possiamo fare. E quella scelta di accettare quella rata, sì, ce la possiamo fare. E poi ci vediamo costretti ad una vita nella quale facciamo il primo lavoro. Tutti e due lavorano. Il terzo lavoro, straordinari. E poi che cosa succede? Succede che la nostra giornata è spesa al lavoro. E siamo lì a fare delle ore straordinarie di lavoro per pagare per una bella casa nella quale non possiamo abitare e abitiamo poco perché stiamo nella maggior parte del tempo nel nostro posto di lavoro. Non è assurdo? È patetico. È patetico che noi ci facciamo prendere dalle ricchezze e finiamo per lavorare in modo tale che possiamo pagare chi deve educare i nostri figli. È triste, è patetico ed è soffocante. E Gesù dice non soffocare, non farti prendere dalle ricchezze. Come puoi vincere le ricchezze? Io credo che è molto semplice. Quello che tutti dobbiamo comprendere è che i soldi sono un pessimo padrone. Sono un buon servo, sono un ottimo servo. Se tu domini sulle ricchezze e governi le ricchezze nella tua vita, saranno un ottimo servo per la tua vita. Ma se diventano loro il padrone, sono un pessimo tiranno. Ti soffocheranno e toglieranno tutto il vigore di vita che invece il Signore Gesù ti vuole dare in un buon terreno che porta frutto. Come puoi vivere questo? Come puoi vincere questo? Tre istruzioni molto chiare che la parola di Dio ci dà. La prima è dai la decima. So che sembra strano, e il mio obiettivo di questa mattina non è fare un messaggio sulle decime, ma il mio messaggio è un messaggio sul non soffocare. E c'è un segreto nel dare le decime che ci permette di non soffocare. Perché dare la decima ogni mese, per tutti noi che la diamo, per la maggior parte di noi che la dà, è qualcosa di estremamente difficile. Richiede che noi prendiamo quel conto bancario e diciamo la primizia dell'entrata del mio stipendio, il 10%, e via, appartiene all'Eterno. Ed è questo proprio il senso della parola delle decime secondo la parola di Dio. La parola di Dio parla delle decime come quella decima parte che già appartiene a Dio. E nel momento in cui noi non la diamo a Dio, noi derubiamo Dio. Però il discorso è questo, che Dio non è interessato ai nostri soldi. E neanche noi come Chiesa siamo interessati ai soldi nostri. Però c'è un principio spirituale. Non mi interessa dove la dai la decima, non è questo il discorso. Dalla fuori, dalla un'altra chiesa, dalla un'altra opera missionaria, ma se dai la decima, io ti garantisco che quella decima diventerà una falce nelle tue mani per distruggere e tagliare quelle spine attorno a te. Quando tu scegli di dare la tua decima, sei costretto ad amministrare tutto il resto dei soldi. Se ti entra 1.000 e devi togliere 100, sai che devi cominciare a pensare in una maniera saggia sui 900 che ti rimangono. Ed è proprio questo l'obiettivo di Dio per noi, che noi diventiamo degli amministratori attenti, dei governatori sulle nostre finanze, che noi dominiamo sui nostri soldi, non che i soldi dominano su di noi. Quando noi dobbiamo fermarci con nostra moglie, nostro marito e dire ok, questo è quello che entra, il 10% lo togliamo, questo è quello che ci rimane, che cosa ne facciamo? È lì che subentra il principio sano per la nostra vita. La decima non è una tassa, la decima non è una bolletta, la decima è uno strumento di adorazione, è un mezzo attraverso il quale noi diciamo Dio è al primo posto anche nell'area finanziaria. Il primo suggerimento che ti do, che è un comandamento di Dio, è dai la tua decima al Signore. Il secondo suggerimento è risparmia, metti da parte qualcosa ogni mese. Non è un comandamento di Dio, ma è un suggerimento che noi troviamo in Genesi ed è il suggerimento che Giuseppe dà al faraone. Attraverso l'interpretazione del sogno, lo ricordate, delle 7 vacche grasse e poi seguite dalle 7 vacche magre, Giuseppe sta dicendo al faraone, nei sette anni di abbondanza dobbiamo mettere da parte per i 7 anni di carestia che avremo. Ognuno di noi dovrebbe mettere da parte ogni mese una cifra da tenere per quello che è un tempo di magra, per quell'elettrodomestico che si romperà perché non sono eterni, per quel incidente, per quella occasione dove i soldi sono necessari e c'è un bisogno straordinario. Il tuo mettere da parte quei soldi è dire io domino su di voi, non siete voi a dominare su di me, io scelgo di non soffocare, io scelgo di mettere a voi il guinzaglio e non voi il guinzaglio a me. Vi tengo a bada e quando succederà qualcosa e quando sarà necessario, so che posso ricorrere a voi, voi siete i miei servi. Dai la tua decima, metti sempre ogni mese una cifra da parte, una cifra prestabilita, fai un budget con tua moglie, con tuo marito. Scegli quanto sarà, 10, 20, 30, mettilo da parte ogni mese, tornerà utile per quel tempo nel quale ne avrai bisogno. Con la restante parte, questo è il terzo suggerimento che ti do, con la restante parte ridimensiona la tua vita, ridimensiona il tuo stile di vita, ridimensiona la scelta di che cosa mettere sul tavolo quando mangi. Le nostre tavole sono sempre troppo abbondanti di cibo a volte. Possiamo rinunciare per non essere dominati, possiamo rinunciare per non soffocare. Possiamo rinunciare per non costringerci a una vita che non è quella che Dio ci ha chiamato a vivere. Possiamo rinunciare per poi servire di più. Possiamo rinunciare per poi non essere costretti a fare 1.000 lavori e 1.000 straordinari. Possiamo rinunciare in modo tale che ci sia equilibrio dentro di noi. E tutto quello che sto dicendo è qualcosa che voi stessi potete andare a leggere nella parola di Dio. Guardate l'Apostolo Paolo a Timoteo, questi suggerimenti che dà. Lo leggiamo insieme. Dice, la pietà con animo contento del proprio stare è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo, guardate le priorità dell'Apostolo Paolo che suggerisce, avendo di che nutrirci e di che coprirci. E non sta parlando neanche di che vestirci, sta parlando di essere coperti. Ed è la tua scelta dire davanti, ma che cosa penserà la gente? Rispondere, io non mi faccio soffocare. Io non mi faccio soffocare. Ma è in saldo, quella giacca è in saldo. È un ottimo prezzo, stava a 200 euro, ora ne sta a 150. È un'ottima occasione. Davanti a quell'acquisto, dire io non mi faccio soffocare. Quella macchina nuova mi costerà solo 200 mensili con la rata. Ce la posso fare, devo un po' stringere la cinghia qua e là, magari qualche ora in più, ce la posso fare. Io non mi faccio soffocare. Io non mi faccio soffocare. Le spine non avranno dominio su di me. E poi va avanti dicendo, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che portano a morte, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. La parola di Dio ti dice, questa sera ridimensiona il tuo stile di vita, ridimensiona le tue spese, falle in una maniera avveduta, falle in una maniera saggia, metti a guinzaglio i tuoi averi e i tuoi beni, metti a guinzaglio i tuoi soldi, perché in quella maniera comincerai veramente a vivere una vita abbondante. Comincerai ad avere una vita abbondante che parte da dentro e va fuori. Cominci a vivere una vita abbondante perché vai tranquillo a letto. Magari non avrai quella giacca da 150 euro, ma ti coricherai con la consapevolezza che domani è un altro giorno e puoi permetterti di servire il Signore. Domani è un altro giorno e puoi permetterti di educare i tuoi figli. Domani è un altro giorno e ti puoi permettere di curare la tua famiglia e dare di nuovo priorità a quella chiamata che Dio ha per te. Ne ho visti tanti. Molti non sono più in mezzo a noi. Ragazzi ai quali il Signore ha dato parole profetiche e ha chiamato loro a delle vite con un destino meraviglioso. Per fare la differenza, per vincere, per conquistare nuovi territori. E Dio ha parlato a loro dell'abbondanza di frutto che avrebbe portato attraverso di loro. E questi ragazzi sono cresciuti e con loro sono cresciute le spine. E hanno cominciato a gestire male i loro averi. E le ricchezze sono diventate la priorità. E il nuovo acquisto, è la nuova casa, è la nuova, il nuovo stile di vita li ha portati a soffocare. Quando io guardo i miei genitori, io vedo delle vite sane, dei terreni abbondanti. Ci hanno cresciuto con poco, ed era quel poco che realmente potevamo permetterci. Ma quel poco è diventato così tanto. È diventato abbondanza per loro, è diventata abbondanza per me oggi, e diventa abbondanza per tutti i nostri figli. Io ricordo mio fratello Jonathan, e quando ha avuto la possibilità di fare carriera nel suo lavoro, mi ha detto, perché non lo fai? È bellissimo. Hai un'altra possibilità di guadagnare più soldi. E lui mi ha risposto, sai cosa? Richiede più responsabilità e più ore. Io non voglio vivere per il lavoro. Io voglio lavorare per vivere. Io voglio tornare a casa e stare con i miei figli. Io voglio passare del tempo con la mia famiglia. È vero, dovremmo costringerci a questa casa, ma lo voglio fare. Qual è la tua scelta? Sono scelte pratiche quelle che il Signore ci dà, molto pratiche. Dio è molto, molto franco. E quello che Lui ti dice questa sera è non soffocare, non subire la vita, ma vivila. Vivila appieno, sii colui che domina sui tuoi soldi. Quello che Gesù ti dice questa mattina è non farti derubare. Il diavolo viene per rubare, ammazzare, distruggere. Non farti derubare. Di quello che lui ha piantato nel tuo cuore questa mattina, non farti derubare. Il Signore ti dice non bruciare. Il Signore non vuole che tu bruci. Il sole può essere caldo, la fiumana può essere forte, ma il Signore vuole il meglio per te e non vuole che la tua vita si bruci. E in ultimo il Signore ti dice non soffocare. Che Dio buono che abbiamo, che Dio meraviglioso, che maestro in Cristo Gesù, che maestro di vita per scelte pratiche. Se tu questa mattina scegli di non fare di quel maestro solo una teoria, solo una cosa bella che vivi e sperimenti nella gioia di lodare e cantare la domenica in chiesa, ma se questa mattina tu scegli di dire lui è il mio maestro, lui è la mia guida, io farò quello che lui mi dice di fare, io seguirò le sue istruzioni, le sue indicazioni, quello che lui vuole per te è il meglio e quello che tu vivrai sarà il meglio, sarà abbondanza di frutto, sarà abbondanza di benedizioni per la tua casa e per gli altri. Vogliamo alzarci in piedi? E vuoi fare questa mattina una scelta? Vuoi fare la scelta di seguirlo? In quelle che sono le indicazioni anche più pratiche che lui ti ha dato questa mattina. Io voglio pregare per ciascuno di noi che il diavolo non ci possa derubare. Che il diavolo, come questo uccellino, possa rimanere in gabbia. Che non possa avere la libertà di rubarci e derubarci delle ricchezze che Dio ha seminato dentro di noi. E che ciò che Dio ha voluto seminare nei nostri cuori possa andare a fondo. Possa scavare, possa affondare. Se non sei certo di quello che hai sentito questa mattina da parte mia, vai tu stesso alla parola. Sei tu che puoi scavare, sei tu che puoi studiare, sei tu che puoi analizzare e vedere tutto questo è vero, è quello che dice la Bibbia, è quello che dice la parola di Dio, è stata una presunzione di Mirko. Scava questa settimana, vai a fondo, metti radici. E non soffocare. Che scelta devi fare da un punto di vista finanziario affinché tu possa abbondare e possa nell'abbondanza benedire gli altri? Quale meravigliosa vita Dio ci chiama a vivere, che non è incentrata su noi stessi, sui nostri bisogni, sui nostri averi, su tutto quello che noi vogliamo e vogliamo ottenere, vogliamo arricchire, vogliamo alimentare e diventiamo obesi. Che meravigliosa vita Dio ci dà da vivere, facendo abbondare in noi degli averi che possiamo seminare per la missione, per l'opera sua nel mondo, in altri che vediamo che sono bisognosi, in chi è povero, non ha da mangiare. Vogliamo pregare insieme, per scegliere insieme questa mattina. E se tu sei qui e dici io ho da fare una qualsiasi di queste decisioni, ti chiedo di alzare le tue mani in arresa davanti a Dio e voglio pregare con te e per te. Padre, grazie perché tu vedi la prostrazione dei nostri cuori davanti alla meraviglia della tua parola, davanti alla ricchezza della tua parola. È così piena, è così vittoriosa. E siamo forse rammaricati di non riuscirla a seguire sempre, ma Padre, in questo momento noi chiediamo il tuo aiuto. Spirito Santo, io invoco la tua potenza nella tua Chiesa che possa scendere nei cuori e nelle vite di ciascuno di noi e che noi possiamo vivere questa vita che tu ci hai dato e non subirla e non essere schiacciati, non essere soffocati, non essere bruciati e non essere derubati. Padre, noi vogliamo essere quel terreno che porta frutto, il 100 per 1 tu prometti e tu sei un Dio che promette e mantiene, tu sei un Dio che non illude, tu sei il Dio della verità, tu sei verità e io voglio confessare questa verità per ognuno di noi e nel venire qui avanti a partecipare alla cena del Signore, noi vogliamo ricordare quello che tu hai fatto su quella croce, trionfando, vincendo, dominando sul maligno. Grazie perché tu hai vinto sulle ricchezze, tu hai vinto sulle tentazioni, tu hai vinto per noi, per il furto. E noi in questo momento vogliamo onorarti e dirti grazie per quello che hai fatto e partecipare con un cuore sincero davanti a te, al pane e al vino che benedico nel nome tuo, Gesù, in questo momento. E benedico tutte le scelte che stiamo facendo in questo momento. Grazie. Amen.